sta scritto nella Bibbia. L'uomo è nato per soffrire come la favilla per volare in alto. GB 5.6. Nonci, è bisogno di appartenere ad una religione o di avere più o meno fede per rendersi conto che si soffre ovunque, essendo inevitabilmente la sofferenza la semplice conseguenza del fatto che si esiste. Ennevo l'ombra normale di ogni vita umana, ma perché i cristiani si pongono interrogativi in merito alla sofferenza? Perché dietro questo interrogativo alberga un presupposto di partenza, riguardante l'esistenza di un Dio buono, il quale proprio a causa di questa sua caratteristica propria ci appare inconciliabile con la sofferenza stessa. Se Dio è buono e l'uomo soffre, allora Dio è un Dio impotente a togliere il male. Altrimenti, se Dio è onnipotente e non evita all'uomo di soffrire, allora non è un Dio buono. Questo è il grande dilemma. Con la nostra logica potremmo attentare una risposta al quesito, ma visto che le nostre valutazioni sono mutabili e imperfette, prendiamo in esame cosa Dio ha rivelato in merito a noi uomini tramite la sua parola. Da essa possiamo trarre almeno 12 verità. 1. La sofferenza è il risultato di una ribellione dell'uomo. Genesi, capitolo 1 a 3. Il primo libro della Bibbia ci fa comprendere che la sofferenza è entrata nel mondo a causa della disubbidienza del primo uomo, cioè di Adamo ed Eva. Se ancora oggi questo fatto è poco conosciuto o ignorato, gran parte della responsabilità ricade sui teologi che continuano a ritenere il racconto della disubbidienza di Adamo ed Eva un mito o per lo più un racconto poetico adatto alla mentalità degli ebrei di migliaia di anni fa. Perciò non è mai troppo sottolineare che la parola di Dio dà una risposta alla sofferenza e chi non la vuole accettare prima di tutto non ha altre risposte, poi non ha altre soluzioni per risolvere alla radice questo problema. Infatti, l'uomo comune e i dottori sono anche in grado di aiutare chi soffre, ma per lo più non sono in grado di togliere la causa della sofferenza stessa. Infatti, la maggioranza della sofferenza dell'uomo deriva da un atteggiamento sbagliato nei confronti della vita, il quale provoca malattie psicosomatiche e disarmonia nell'esistenza per le quali le medicine non possono fare più di tanto. Così, secondo il racconto della Bibbia, la donna avrebbe partorito con dolore, l'uomo avrebbe fatto fatica a lavorare, la terra non avrebbe prodotto sempre il risultato della fatica e ci sarebbe stata disarmonia all'interno della coppia. 3.1619 e fra gli uomini. Dopo migliaia di anni, la razza umana cerca ancora una risposta alla sofferenza e non si rende conto che basterebbe semplicemente accettare la diagnosi di Dio. Non a caso la scrittura afferma: la sapienza sta davanti a chi ha intendimento, ma gli occhi dello stolto vagano fino agli estremi confini della terra. PR 17.24. Quindi, la mancata accettazione della realtà che la sofferenza sia il risultato della ribellione dell'uomo è anche sintomo di stoltezza. Non secondo il mio punto di vista, ma secondo Dio. La cosa è seria. 2. La sofferenza è il risultato della disubbidienza dell'uomo. Deuteronomio 30.1.5. Cristo Gesù ha dato delle leggi perché l'uomo potesse vivere in armonia con il mondo, con il prossimo e con Dio. Ma l'uomo continua a fare di testa sua, portandone le ovvie conseguenze. Pochi hanno compreso che non è colpa di Dio se cacche del male, dell'ingiustizia, del dolore, della sofferenza. E come incolpare il codice stradale perché si verificano degli incidenti? Se ognuno osservasse il codice stradale, tutto andrebbe bene, come andrebbe meglio la vita, e non ci sarebbe un certo tipo di sofferenza se tutti facessero la volontà di Dio. Se l'uomo soffre perché è derubato o accusato, ingiustamente, se soffre perché è l'inquinamento atmosferico, se si estinguono certe razze di animali, se il mare e i fiumi sono inquinati, la colpa non è di Dio, ma di chi ignora la legge divina, che ordina di amare ciò che Lui ha creato. Siamo arrivati ad un punto tale da essere costretti a considerare molto seriamente la legge come principio di vita e obbedire ad essa, sia che questa si riferisca all'ambito della fisica, della vita sociale o di quella spirituale. perché ogni trasgressione della legge è una sofferenza in più. È vero che in generale le leggi danno a tutti fastidio, perché una cosa non la devo fare, e spesso è quello che mi piace di più, e una la devo fare, e spesso è quella che mi piace di meno. È opinione comune che le leggi limitino condizioni o non permettano di esprimere se stessi fino in fondo, ma le leggi servono non solo per mantenere l'ordine meno, altrimenti, facendo ciascuno che quello che vuole sarebbe impossibile vivere e convivere meno, ma perché l'osservanza di esse ci permetterebbe l'armonia nella nostra esistenza. Camminavo su di una montagna impervia con i miei nipotini, e poiché dovevamo passare per dei sentieri già tracciati, ordinai loro di camminare dietro a me. Uno di essi uscì fuori dal sentiero perché voleva realizzare la sua libertà. Ma ad un tratto sentii un urlo, e corso subito sul luogo vidi che un mio nipotino era andato a finire in mezzo a delle ortiche. Per qualche minuto si sciolse in un pianto irrefrenabile. Pianto che avrebbe evitato nell'osservare solo un mio fastidioso e incomprensibile comando. Fastidioso perché ancora una volta doveva ubbidire. Incomprensibile perché eravamo all'aria aperta, senza pericoli di traffico o altro. Stessa cosa è con Dio. L'Eterno Dio dice: vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, DT 30.15. Sta a noi scegliere. Le leggi di Dio servono a farci evitare alcune sofferenze, ma l'uomo non credendoci le disubbidisce. Ecco perché abbiamo la sofferenza che abbiamo. Poco male se gli uomini si ravvedessero, ma grazie siano rese a Dio, perché chi osserva la volontà di Cristo è esentato da tantissime sofferenze inutili. 3. La sofferenza è il risultato della natura corrotta dell'uomo. Giacomo 1:12-15. Altra risposta che il cristianesimo offre in merito alla sofferenza è che essa è il risultato della natura corrotta dell'uomo. È vero che la sofferenza è la conseguenza della ribellione dei progenitori della razza umana e della sua continua ribellione alla volontà di Dio, ma è altresì vero che molte sofferenze scaturiscono proprio dall'indole stessa caratteristica dell'uomo a compiere cose che ne compromettono la sua completa felicità. Una cosa è affermare che l'uomo sbaglia, altra cosa è sostenere che non è in grado di compiere il bene, ossia ciò che è per la sua felicità. Se osserviamo un bambino che ancora non ha educato le sue inclinazioni, non occorre molto per renderci conto come sia attratto da quanto può procurargli solo sofferenza. Non solo. L'uomo non conosce neppure quale sia il suo bene, a tal punto da scambiare il bene per il male e il male per il bene, si crede libero quando invece è schiavo, si crede buono, mentre invece è malvagio, ama ciò che Dio odia. Ed odia ciò che Dio ama, guarda a Dio come fosse un fastidioso nemico, piuttosto di accettarlo quale suo migliore amico, e, di conseguenza, scambia i nemici per amici e gli amici per nemici. Questo non è solo un piccolo elenco di alterazioni che l'uomo commette, ma è una dimostrazione che nella razza umana non vi è più nulla di perfetto da poterlo rendere felice, seppure ovviamente l'esistenza umana è comunque cosparsa anche di felicità. Si vuole sottolineare che ogni gioia terrena donata dal Creatore è cosparsa di infelicità, ma che l'uomo è incapace di realizzare, e questo perché in lui, meno, come dice la parola di Dio, dimora un principio negativo che si chiama concupiscenza. Giacomo, il fratellastro di Gesù, lo dice chiaramente nella sua lettera. Nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato e il peccato, quando è consumato, genera la morte. GC 1.13-15. A sfuggire a molti, in questo disastroso quadro della natura umana, è la parola morte, che per Dio ha il significato non solo di cessazione di vita, ma di tutto ciò che procura sofferenza. In definitiva, l'uomo è tentato continuamente dalla sua corrotta inclinazione umana a compiere volontariamente e involontariamente ogni cosa contraria alla sua felicità. Se non fosse così, non avremmo bisogno di essere educati, il che comporta un lungo ammaestramento e allenamento per imparare ciò che è per il nostro bene. Se questo non offende nessuno, la razza umana è come un cane che deve essere ammaestrato a evitare la sofferenza con lezioni e ripetizioni, finché non ha assimilato cosa sia la felicità. Se accettiamo di essere irrimediabilmente corrotti, inclinati per natura al male, desiderosi di compiere solo ciò che procura sofferenza, allora accetteremo anche la necessità di essere istruiti da un Dio che desidera la nostra vera felicità. Così, i comandamenti di Dio, assieme ai suoi ordini e divieti, non sono nemici giurati della nostra felicità, ma preziosi amici per evitare le inutili sofferenze. E questo perché di sofferenze, secondo i principi cristiani in meno, ce ne sono di due tipi: quelle giuste e quelle ingiuste. Le sofferenze giuste e inevitabili sono quelle che provengono dal semplice venire all'esistenza, come soffrire la fame, patire il freddo e il caldo, faticare nel fare le salite. E c'era, mentre le sofferenze che non dovrebbero esserci sono quelle autoprocurate grazie a una vita disordinata in merito all'alimentazione, agli affetti sbagliati, al denaro e agli estremismi di ogni genere. Infatti le persone si procurano più sofferenze con la forchetta e il coltello che con qualsiasi altro mezzo. Si trovano aggrovigliati in sbagliate relazioni sentimentali e spesso arrivano all'estremo gesto dell'omicidio e del suicidio. Un amore smoderato per il denaro procura dolori di ogni genere, quale in superlavoro, con sbalzi di pressione dovuti all'ansia, all'invidia, alla gelosia e con una cronica insoddisfazione. Purtroppo l'uomo in genere sottovaluta la sofferenza ingiusta che lo circonda e della quale è vittima, considerandola come parte normale della vita, e questo perché non conosce un altro modo di vivere. E, come per un abitante di una zona sperduta dell'Africa che non ha conosciuto il progresso, per lui andare a caccia di un animale per ore e ore con le frecce è una cosa più che normale, essendo ignaro che con un fucile si uccide un animale all'istante. L'abitudine a volte può impedire di comprendere situazioni migliori, come quando ero nella pubertà e vivevo con un profondo vuoto nel mio intimo e non ero cosciente dell'esistenza di una vita molto più bella e gratificante, che sono giunto tuttavia a realizzare il 26 maggio del 1964 diventando un figlio di Dio, mediante un atto di fede salvifica in Gesù Cristo. Da quel giorno non posso dire di non soffrire più, perché prima di essere un cristiano sono un essere umano e quindi partecipe della sofferenza comune a tutti, ma da allora ho evitato tante e tantissime sofferenze per il solo semplice fatto di aver ubbidito ai comandamenti di Dio. Così, pur essendo compartecipe alla natura corrotta di tutti, per la forza che Dio fornisce mediante il dono della persona dello Spirito Santo, sono felice due volte, perché sono un figlio di Dio e perché evito sofferenze comuni a molti, non è poco. 4. Dio procura la sofferenza, Ebrei 12:7-11. Il grande dilemma suscitato dall'apparente contraddizione che, essendo Dio buono, se l'uomo soffre, allora Dio è impotente a togliere il male, oppure se Dio è onnipotente, non evitando all'uomo di soffrire, allora non è un Dio buono o in realtà non esiste. Infatti, un simile interrogativo è frutto solo di un ragionamento speculativo, perché è sufficiente considerare la realtà della vita per trovare la risposta a ogni domanda. Se i detrattori della fede cristiana pongono Dio sul banco degli imputati, con queste accuse, avendo Cristo creato l'uomo a immagine di Dio, essi dovrebbero ricordarsi di porre le stesse imputazioni anche nei confronti di un qualsiasi genitore che educa i propri figli. Infatti, dato per scontato che ogni genitore ama la sua prole, chi giudica il comportamento di Dio deve soppesare anche ogni genitore, il quale, in virtù dell'atto educativo stesso, fa soffrire i propri figli. Ma nessuno ha mai pensato di pronunciare una sola parola ingiuriosa, anche perché nel condannare gli altri condannerebbe se stesso come genitore. Così, tolto via il mito pagano che un Dio buono non farebbe soffrire l'uomo che ha creato, la risposta cristiana alla sofferenza è che Dio, nel suo amore, quando lo ritiene opportuno, permette volontariamente la sofferenza di coloro che ama. La parola di Dio in merito non lascia dubbi, e prendendo proprio esempio dall'esperienza della vita terrena, esalta l'espressione dell'amore di Dio mediante la sofferenza. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuta la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Questa parte della scrittura deve essere presa sul serio, altrimenti non abbiamo una risposta cristiana alla sofferenza. È importante sottolineare che mentre filosofi e pseudocristiani sostengono che Dio è incomprensibile, asserzione in parte vera, il messaggio rivelato all'uomo dal Dio Trino tramite le scritture, cioè la Bibbia, in merito al suo carattere mette in evidenza che un comportamento incomprensibile di Dio è invero del tutto comprensibile osservando ciò che Egli ha creato e come interagisce. Se come figli abbiamo accettato una correzione umana, anche se questa non era sempre giusta, quanto più si dovrà accettare che le circostanze buone e cattive della vita sono nelle mani di un Dio sovrano e che tutto serve per il nostro bene ed è compiuto come atto di giustizia. Eppure Hank, egli Dio, è saggio, fa venire il male e non revoca le sue parole. Is 31.2. In merito all'amore di Dio, risuonano molto forti e appropriate le parole rivolte dall'Eterno Dio al popolo di Israele, dopo averlo fatto vagare per 40 anni, e 40 anni non sono pochi, nel deserto. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano, per umiliarti, per provarti e per farti alla fine del bene. Diti 8.2.16. La ragione, addotta dall'Eterno Dio, per aver voluto far soffrire al popolo la fame, la sete, il caldo torrido e ogni altra vicissitudine, era tra l'altro l'intenzione di umiliarlo. Umiliare. Sì, più volte l'Eterno dichiara, senza mezzi termini, non solo di averlo appositamente fatto soffrire, ma di avere in serbo per il popolo uno scopo molto più drastico, l'umiliazione. E non credo che ci sia esperienza peggiore, perché un conto è farti soffrire la sete, altra cosa è portarti a patire in modo estremo l'arsura al fine di costringerti a implorarmi di darti da bere. Eppure sete, fame, caldo e ogni tipo di sofferenza era soltanto tesa al bene del popolo, affinché imparasse che il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Certo, l'amore di Dio non sempre è gradevole, come del resto anche l'espressione dell'amore dei nostri genitori non è sempre stata gradevole, eppure li abbiamo rispettati. Perché allora alzare il pugno contro Dio solo perché le cose non vanno secondo i nostri desideri o in accordo con la nostra immaginazione? Perché l'incredulo rifiuta ogni conoscenza di Dio solo perché coloro che si professano credenti commettono anche delle assurdità? Un ateo forse smette di essere ateo se esamina le ingiustizie degli atei? Un politico smette forse di fare politica se vede altri politici commettere illegalità? Altra verità che la risposta cristiana offre in merito alla sofferenza è che non possiamo attribuire tutta la sofferenza dell'uomo direttamente a Dio. Quando, ad esempio, nell'agosto del 1945 vennero sganciate sul Giappone due bombe e 12 chilometri quadrati di Hiroshima furono completamente distrutti, provocando la morte di 90.000 persone e altrettanti ustionati, mentre a Nagasaki morirono circa 14.000 persone, un tale gesto sconsiderato è esclusivamente addossabile alla disumanità dell'uomo stesso, non di certo a Dio. Quando i giapponesi nel 1937 invasero la Cina avanzando a tappe forzate verso Nanchino, sede del governo nazionalista, secondo alcuni calcoli i civili ammazzati furono 350.000 e le donne violentate tra 20 e 30.000. Al di là del numero, i giapponesi non si limitarono a decapitare, sventare e squartare le loro vittime, ma eseguirono anche una varietà di oscene macellazioni. Inchiodarono gente ad assi di legno per farci passare sopra i carri armati, crocifissero persone agli alberi e pali elettrici come fantocci viventi per gli addestramenti con la baionetta. Di un simile ripugnante terrore Dio non ha responsabilità alcuna. Sono gli uomini ad aver inventato le macchine da tortura e ogni tipo di tormento, mentre la sofferenza che Dio procura a coloro che ama è umana, cioè sopportabile. Anche in questo, il Dio delle Scritture si distacca completamente dalla sofferenza provocata dall'uomo. Anzi, non vi è paragone. Infatti, mentre i potenti compiono e fanno compiere ogni sorta di atto violento ai loro sudditi perché lo possono fare, il Dio Trino, pur essendo potente al punto tale da essere in grado di compiere qualsiasi cosa, tiene conto ad ogni istante che l'uomo è principalmente e sostanzialmente fragile, debole, che è polvere, incapace di portare carichi sovrumani. In effetti è vero che l'Eterno Dio ha fatto vagare nel deserto per 40 anni il popolo di Israele facendogli soffrire la sete, la fame e la calura, ma è altresì vero che, alla fine del viaggio, ha potuto discolparsi, diciamo così, mostrando di aver in seguito provveduto ai suoi bisogni e soprattutto di non averlo sottoposto a sofferenze contro natura. Una cosa è soffrire a livello umano, altra cosa è essere colpiti da radioattività per una bomba atomica e morire tra atroci dolori. Ho letto la testimonianza di un sopravvissuto all'attentato terroristico delle Torri Gemelle, dove l'uomo narrava di aver visto sulle scale una donna nuda, completamente bruciata e senza pelle, come una patata sbucciata. Questa non è la sofferenza di Dio, ma quella procurata dalla malvagità degli uomini. Così, la risposta che offre il cristianesimo alla sofferenza è che Dio corregge i suoi figli, e se la correzione sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza, dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Provare per credere. 5. La legge della natura trasmette la sofferenza a Romani 5,12. È molto importante tenere presente l'esistenza di un aspetto della sofferenza umana non relazionabile né con Dio né con il diavolo, per quanto alcune persone per ogni cosa contraria, negativa o davanti a qualsiasi cosa arrecante pena imputano l'intero fatto a un essere superiore. E non potendo questo essere altri se non unicamente Dio o il diavolo, alla sbarra si trova sempre uno dei due. Questa è una fobia religiosa che conviene abbandonare subito se si vuole vivere bene e dare una risposta equilibrata alla sofferenza del creato. I primi cristiani, come sempre per ogni problematica, hanno spesso affrontato l'argomento della sofferenza, predicando un Dio di amore. Infatti, è molto difficile farne conciliare questa sua caratteristica principale con il male che impera nel mondo. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dove traccia abbondantemente le principali verità del cristianesimo, dopo aver parlato della gloria del credente giustificato per la fede in Cristo, si trova quasi costretto a mettere in evidenza il contrasto della gloria futura, spettante a chi ha realizzato la nuova nascita, con la realtà presente. Le sue parole sono veramente consolatrici. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello spirito noi stessi, dico soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. ERM 8.1.8.23. Ancora una volta, l'Apostolo Paolo tratta il problema della sofferenza partendo dal principio della creazione e ancora una volta riconosce la descrizione che ne fa il libro della Genesi come un fatto storico. Finché gli uomini con i loro ragionamenti non avranno questo atteggiamento, non riceveranno neppure una risposta cristiana alla sofferenza. La parola di Dio sostiene che ogni tipo di male e di sofferenza che incombono sull'uomo e sulla creazione provengono dalla disubbidienza di Adamo ed Eva. Come ha detto Paolo, la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma da colui che ve l'ha sottoposta, e cioè Adamo. Proprio perché la creazione è sotto maledizione causa la volontà dell'uomo, tutto il creato aspetta la piena redenzione dei figli di Dio, e solo allora, quando vi saranno nuovi cieli e nuova terra dove giustizia abita, anche la creazione realizzerà una totale liberazione dalla corruzione e godrà della gloria che avranno i figli di Dio. Questo messaggio è stato alterato dall'Associazione dei Testimoni di Geova, i quali sostengono di aspettare al più presto un periodo paradisiaco, e pur essendo vero che Cristo verrà per rapire la sua Chiesa e portarla poi a regnare con Lui sulla terra. Vincitrice e trionfante, il discorso di Paolo nella lettera ai Romani è riferito ad un periodo susseguente al suddetto evento, perché anche durante i 1000 anni nei quali Cristo assieme alla Chiesa regnerà sulla terra, la corruzione, la sofferenza e il male continueranno ad esistere. Dunque, la legge della natura non è stata eliminata con l'incarnazione di Gesù o con la sua resurrezione, né lo sarà quando egli verrà per regnare sulla terra, ma verrà annullata solo dopo che saranno stati creati nuovi cieli e nuova terra. Cosa si intende dunque per legge di natura e sostenendo l'esistenza di un aspetto della sofferenza umana non relazionabile a Dio né al diavolo? Come Adamo ha trasmesso la propria inclinazione sbagliata a tutta la razza umana, così ha trasmesso anche la sofferenza fisica. Un diabetico, per esempio, trasmette il diabete ai suoi figli. Un ubriaco genera figli anormali. Un drogato trasmette AIDS ai figli. E su questo Dio non può farci nulla, perché, impedendo alla legge naturale di agire, il mondo stesso, essendo regolato da leggi, cesserebbe di esistere. E, anche vero però che di tanto in tanto Dio interviene, e con la conversione di un'anima, a volte si rompe la catena del male e della sofferenza. Ho presente un uomo al quale avevano diagnosticato un tumore e pochi mesi di vita. Su quel letto di malattia rivolse una preghiera di totale, arresa a Dio, e non solo guarì istantaneamente, ma la sua morte avvenne dopo molti anni. Dio è in grado di fare questo, ma sarebbe un errore fatale pretendere che Dio interrompa sempre la legge della natura. Come è un fatale errore sfidare Dio andando contro natura solo perché si è arditi. Ho letto di una credente che aveva chiamato giornalisti e fotografi perché meno, a suo parere, meno avrebbe camminato sull'acqua. La povera donna morì annegata. La sofferenza dilaga già di per sé a sufficienza, perché se ne cerchi dell'altra. 6. La sofferenza glorifica Dio. Esodo 9.1-3.16. La storia della liberazione del popolo di Israele dall'oppressione e dalla dura schiavitù dell'Egitto da parte dell'Eterno è stato un episodio unico negli eventi epici delle nazioni, tanto unico che più volte l'Eterno ricorda, e a volte perfino rinfaccia, di averli liberati e fatti passare per il Mar Rosso. Un episodio che, letto su di un pezzo di carta, può sembrare così tremendamente romantico da poter essere proiettato sugli schermi per suscitare emozioni malinconiche, ma che, soppesato nella sua realtà, mostra quanto il popolo di Israele abbia veramente sofferto angherie tali da non augurare, neppure al peggior nemico. Tutto questo ha apparentemente dell'incomprensibile, e così sarebbe se Yahweh stesso non si fosse preoccupato di dare la spiegazione di tanta sofferenza. Così leggiamo nel libro dell'Esodo. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Levati al mattino presto, presentati davanti al Faraone, e digli: Così dice l'Eterno, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo, perché mi possa servire, poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe proprio su di te, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è e nessuno simile a me su tutta la terra. Infatti se io ora avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato cancellato dalla terra. Ma proprio per questa ragione ti ho risparmiato per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Dunque Yahweh ha lasciato che il faraone trattasse in modo disumano il popolo di Israele, ha lasciato che il faraone arrivasse a beffarsi e a rifiutare per 10 volte l'ordine di Dio, per poter dimostrare al faraone stesso e al popolo di Israele la sua potenza dividendo il Mar Rosso meno mare dei giunchi, meno e perché si riconoscesse che sulla terra non vi è altro Dio o divinità vera. Se mediante la sua infinita potenza l'Eterno avesse giudicato o distrutto immediatamente il faraone, se lo avesse obbligato ad ubbidire già dalla prima volta, come avrebbe compreso il faraone chi era l'Eterno, e come avrebbe compreso Israele la potenza del suo Dio, cioè di Yahweh. Non è forse vero che noi realizziamo la misericordia e l'amore di Dio quando siamo nella sofferenza e quando più grande è la difficoltà, maggiormente comprendiamo l'amore di Dio? Ecco dunque una risposta alla sofferenza umana. Essa permette di glorificare Dio. Chi di noi ha il coraggio di lamentarsi della sofferenza e soprattutto di incolpare Dio di mancanza di amore? 2 episodi al tempo di Gesù mettono bene in evidenza come la sofferenza glorifichi Dio. Il primo lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Mentre Gesù passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio». GV 9.13. I discepoli di Gesù, della sofferenza, avevano un concetto solo umano, naturale, frutto di una errata interpretazione di ciò che leggevano nella legge di Dio. Infatti i discepoli sapevano che essa era entrata nel mondo a causa della disubbidienza di Adamo ed Eva, e conoscevano pure che essa spesse volte è il risultato di una trasgressione personale, perciò si chiedevano chi avesse peccato. La risposta di Gesù li lasciò sorpresi. Questa malattia era avvenuta perché si potesse manifestare l'opera di Dio, e cioè perché Gesù lo potesse guarire miracolosamente. Niente di più vero. Vi sono sofferenze che apparentemente non hanno senso e che si trascinano per anni, eppure sovente molte di esse sono un mezzo per dare gloria a Dio. Che dire di Ioni, una ragazza rimasta paraplegica a 17 anni, la quale, dopo una lunga lotta spirituale, si è arresa a Cristo Gesù e in seguito ha fondato un'associazione per disabili che lavora in tutto il mondo, testimoniando vigorosamente dell'amore di Dio? La sua sofferenza, chiamata disgrazia, non è forse un motivo per dare gloria a Dio? L'altro episodio lo troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». E Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». GV 11.14. Ancora una volta Gesù mette in evidenza che la malattia e poi la morte di un uomo era ragione per glorificare Dio. Lazzaro resuscitò, è vero. Ma anche se non sono risuscitati, dobbiamo riconoscere che la morte di tanti cristiani è stata più utile alla testimonianza del Vangelo di tanti altri mezzi. I cristiani del XXI secolo sono responsabili di annunziare al mondo che Dio è in grado di trasformare ogni tipo di sofferenza in un mezzo per glorificare Dio. Se ci credono, nulla potrà fermarli nella loro testimonianza. 7. La sofferenza porta vicini a Dio, Ecclesiaste 7:3. Se coloro che ne hanno fatto l'esperienza potessero uno a uno narrare come sono stati benedetti e liberati mediante la sofferenza, e soprattutto come mediante grandi difficoltà hanno potuto conoscere Dio per mezzo di Gesù Cristo, non basterebbero migliaia di anni. Ho presente persone che si sono arrese a Cristo per aver perduto chi un coniuge o chi un figlio, altre per essersi trovate in punto di morte, altre ancora perché provavano un mortale vuoto interiore. Parlavo di recente con un giovane ardentemente desideroso di parlarmi per ragioni spirituali. Alla mia richiesta riguardo a cosa lo aveva spinto da cercarmi, meno dato che sono pochi i giovani interessati al Vangelo, testimoniò che la sua ricerca spirituale era iniziata alla nascita di sua figlia, mentre prima era completamente ateo. Poiché assisteva al parto di sua moglie, vedendola soffrire così tanto, alzò gli occhi al cielo. E proprio in quel momento i suoi occhi notarono un crocifisso appeso al muro. Sull'istante rivolse una preghiera a Dio, anche se gli era sconosciuto, e da quell'attimo sbocciò in lui la fede e la ricerca di Dio. Comprò una Bibbia, iniziò a leggerla avidamente, a tal punto da aver raggiunto una preparazione biblica da fare invidia a tanti credenti professanti. Cosa aveva spinto alla ricerca di Dio? Questo giovane finora vissuto da convinto ateo? La sofferenza! Ci siamo lasciati con la sua promessa, che in breve tempo avrebbe preso la decisione di seguire Cristo, anche perché aveva capito che era giunto il momento di fare una scelta meno e il giorno che Cristo avrà la massima autorità sulla sua volontà, benedirà Dio per la sofferenza del parto di sua moglie, dando in questo modo gloria a Dio. Questa è una risposta cristiana alla sofferenza, e ogni credente deve prenderla sul serio. Non sottovalutare questa risposta significa dimostrare che il compito principale del cristiano non è tanto togliere la sofferenza dal mondo meno, anche se ovviamente è chiamato altresì a questo meno, ma è, prima di tutto, quello di predicare il Vangelo capace di togliere più sofferenza di qualsiasi diverso aiuto umanitario. In quest'ottica è veramente deleterio vedere alcuni genitori che cercano in tutti i modi di evitare ogni sofferenza ai loro figli. E soprattutto è una reale mancanza di fede se sono arrivati alla fede mediante una vita travagliata, meno casomai con uno o più divorzi alla spalle, meno i quali in seguito non accettano che i loro figli possano fare o debbano fare lo stesso percorso. Spesso i sentimenti sono i più grandi nemici della fede, ma una presa di coscienza giornaliera di come Dio opera nell'afflizione è in grado di renderci vittoriosi e portare altri a glorificare Dio per la sofferenza da Lui somministrata. Obiettivamente occorre anche riconoscere che la sofferenza non produce in tutti lo stesso effetto, e alcuni a volte hanno perso addirittura ogni sentimento religioso, ma la causa non sta nella sofferenza, piuttosto risiede nel cuore. Infatti, le angosce, le disgrazie, i traumi psichici, eventi dolorosi di ogni genere, sono in se stessi neutri. E il cuore, a non essere neutro, è uguale per tutti. La sofferenza deve essere considerata come il calore del sole. Esso scioglie il burro, ma altresì è in grado di indurire la creta. La differenza di reazione nei confronti del calore del sole non sta nel sole stesso, ma nella natura dell'oggetto. Porto un esempio veramente singolare e non nascondo il mio stupore. Ho letto la drammatica testimonianza di Lucio Caputo, nato in provincia di Palermo, l'unico italiano ad uscire vivo dalle Torri Gemelle. Quest'uomo ha raccontato con particolari agghiaccianti come quella mattina dell'11 dicembre 2001 si fosse recato a lavorare presto. Fece colazione al piano 110, prese caffè e brioche e succo, lesse dei giornali e diede uno sguardo alle nuvole. Poi scese in ufficio, piano 68. Accese il PC, alzò la cornetta del telefono e chiamò l'Italia. Quando improvvisamente sentì un boato, la cornetta cadde dalla sua mano, lo specchio che stava di fronte si spostò di un metro per l'oscillazione, sentì urla, vide le porte divelte, i vetri rotti, polvere, fumo. Nessuno capì la gravità della situazione. Lucio scappò giù per le scale. Al 23° piano, due tizi invitavano tutti a riposare in una stanza con l'aria condizionata, ma Lucio fece di testa sua e continuò a correre giù per le scale. Poco più avanti incontrò un cieco guidato dal proprio cane, che in seguito si sarebbe salvato. Prese l'ascensore che portava ai garage. Quando stava per salire in macchina, improvvisamente cambiò idea, tornò indietro ed uscì dalla torre. Alzò gli occhi e vide l'altra torre crollata, mentre quella da dove era uscito era in fiamme. Era un campo di guerra. Girò l'angolo, percorrendo qualche metro, e corse a più non posso. Mentre altri rimanevano impietriti sulla strada, altri ancora correvano dalla parte sbagliata verso la morte. Trovò un palazzo, aprì la porta con un calcio, si accovacciò in un angolo con la testa fra le ginocchia. Poco dopo la torre, nella quale si trovava pochi minuti prima, crollò. Dopo 10 minuti, una poliziotta entrò, annunciando che poteva uscire. Andò a casa, si fece una doccia, si cambiò e si recò al ristorante Le Cirche per un appuntamento che aveva alle 13.05, ma la persona era rimasta bloccata nell'albergo. Perché ho raccontato dettagliatamente questo episodio? Perché il tragico di tutta questa storia vera? Il fatto che l'ufficio di Caputo fosse stato fino a 2 anni prima all'89° piano proprio, quello in cui si è schiantato l'aereo e che per ragioni di ristrutturazione dei locali fosse stato spostato al 68°. Il fatto delle decisioni improvvise e scelte inopportune non è la storia stessa, ma la conclusione finale che ne trae il protagonista. Alla domanda se c'era qualcosa che non aveva mai raccontato di quell'11 settembre, la risposta di Caputo fu: «Ho agito in modo irrazionale, al 25° piano e al momento di andare in garage. Non è da me, credo che mi abbia guidato mia madre che non cae più, incredibile». Una simile risposta lascia allibiti. Se Caputo fosse un ateo, non avrebbe dovuto nominare sua madre morta, perché dopo la morte per un ateo non ci è nulla. Se fosse un credente istruito con elementi cristiani, avrebbe dovuto ringraziare Maria, un santo, Gesù o Dio. Ma nominando la madre come ispiratrice delle sue decisioni irrazionali, Caputo ha fatto appello a qualche cosa che non appartiene su questa terra, a qualche divinità, e poiché non crede evidentemente in Dio e nella religione, ha fatto riferimento alla madre morta. Sì, perché i morti non possono replicare. Questo è un tipico esempio di come la sofferenza possa portare non solo a Dio, ma possa anche rendere insensibili i cuori induriti. Che Caputo abbia avuto meno, per così dire, meno delle ispirazioni non vi sono dubbi. Se ci sono, dobbiamo trovarne la provenienza. Al massimo, Caputo avrebbe fatto appello al suo istinto, meno, e questo poteva anche starci in meno, ma fare appello alla madre è un'offesa a Dio. Eppure, il personaggio del nostro racconto non è il solo a comportarsi così. Perché anche al tempo di Gesù, gli spettatori dei miracoli da lui compiuti attribuivano la sua potenza a Satana. Non c'è, è nulla da dire. Quando una persona non vuole credere all'evidenza, non c'è, è sofferenza o miracolo che lo possa convincere, e anche quando convinto dalla persona dello Spirito Santo di peccato perché non crede in Cristo Gesù, un cuore disonesto e ribelle non fa altro se non rifiutarlo. Questa è la risposta che offre il cristianesimo alla sofferenza, porta vicini a Dio. E se ciò non succede, Dio non è il colpevole. Gesù, il Figlio di Dio, è morto in croce, ha sofferto le più terribili sofferenze, come quella di essere stato abbandonato da Dio. Poteva fare di più? A noi sta la scelta di crederci per non soffrire per l'eternità. 8. Vi è la sofferenza per la fedeltà a Dio, Filippesi 1:29. Se vi è una sofferenza sbagliata, vi è, meno per forza di cose, meno anche una sofferenza giusta. Individuarla immediatamente non è facile, e lo dimostra il fatto che la maggioranza delle persone crede di soffrire per la giustizia. Diversamente cambierebbe atteggiamento. Una persona porta avanti il suo concetto politico costi quello che costi, e se poi viene perseguitato perché tale concetto politico è dannoso per la società, egli si ritiene un eroe. Un altro segue una religione estremista e dannosa per l'umanità, e più è perseguitato più si sente un martire. Un figlio si droga o reca danno ai suoi genitori, se viene ripreso o allontanato dalla famiglia invoca giustizia perché è convinto di compiere nulla di male. Non è dunque facile comprendere sempre quale sia la sofferenza causa la giustizia o la fedeltà a Dio. E occorre perciò sforzarsi di analizzare obiettivamente se stessi alla luce della parola di Dio, perché, come è sempre stato detto dai cristiani, il giusto e lo sbagliato sono dichiarati dalla parola di Dio. Non è la nostra morale né quella della società a dichiarare il bene e il male, ma è Dio rivelatosi all'umanità in Gesù Cristo e nella sua parola. Senza questi presupposti, non è possibile distinguere la sofferenza causata dalla fedeltà a Dio. Chi sono allora coloro che soffrono secondo il volere di Dio? Sono tutti coloro che nell'ubbidire a ciò che ha ordinato Dio trovano opposizione e a volte anche la morte. L'Apostolo Paolo, che di sofferenze ne sapeva qualcosa nello scrivere una lettera ai credenti che abitavano a Filippi dopo aver espresso il proprio amore per loro, scrisse: «Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo». DFL 1.2730. Raramente l'Apostolo Paolo, nelle sue lettere, non ha parlato della sofferenza, perché il messaggio del Vangelo è composto di afflizioni quante ne ha avuta Gesù, e per questo egli le considera una grazia e non una disgrazia. Conosco una coppia, si sposi cristiani, che hanno due figli maschi, i quali, sensibilizzati dai centri sociali in merito al bisogno di una bambina musulmana alla quale la madre per punizione infliggeva profonde bruciature sulla pelle, hanno acconsentito a coglierla in... Ho avuto il privilegio di vedere la bambina, di parlare con lei, come ho visto con quanto amore questi due sposi la allevavano e la educavano. Le hanno parlato della loro fede senza imporle nulla, le hanno insegnato la buona educazione con la stessa fermezza che usavano con i loro figli. Dopo un anno la bambina fu loro tolta, e devo testimoniare il profondo dispiacere di questi due sposi perché ormai si erano anche affezionati. Tutto normale, fino a quando un giorno la credente affidataria fu indagata dall'autorità competente per sospetto maltrattamento a danno della bambina. Accuse assurde! Molto probabilmente queste procedure servono per dare da mangiare a delle persone che abusano di queste strutture, ma rimane il fatto che dietro vi è un gran risentimento per il fatto che la bambina musulmana è stata istruita nella fede cristiana. Nulla di particolare e nulla di clamoroso se si volge lo sguardo oltre le Alpi, perché in tutto il mondo i cristiani soffrono meno per la loro fede e meno cose ben più gravi. Il 29 aprile del 2007 il pastore Walter Masik, in una città dell'India in presenza della moglie e della figlia di 7 anni, è stato picchiato a sangue da circa 25 indù estremisti. I fanatici, fatta irruzione nella sua casa, l'hanno maltrattato davanti alle telecamere di un'equipe televisiva. Lo stesso giorno, l'incidente è stato trasmesso da diversi canali televisivi. Mentre subiva le percosse, Walter invocava continuamente Gesù Cristo. Dopo che gli estremisti se ne sono andati, Walter ha parlato ai cameraman e agli astanti incuriositi dell'amore del Signore Gesù e della preghiera dei cristiani in India. Lo stesso giorno, in Eritrea, la polizia ha fatto di nuovo un'irruzione in una comunità cristiana arrestando 80 membri, mentre qualche giorno prima in Turchia la polizia di Istanbul ha arrestato 4 cristiani perché testimoniavano della loro fede, e in Sudan sono stati assassinati 4 cristiani che ritornavano in camion da una evangelizzazione durata una settimana sui monti Nuba. Perché si soffre o perché ci è la sofferenza? Perché le persone sono malvagie? Perché odiano la luce del Vangelo, ma siano rese grazie a Dio perché anche la più fitta tenebra Non può impedire alla più piccola fiammella di brillare. Spiacente, ma gli uomini malvagi devono ingoiare questa verità. E se non la vogliono ingoiare, essa li schiaccerà. 9. Vi è la sofferenza per astinenza. 1 Pietro 4. 1. L'astinenza può essere definita una qualsiasi necessità non soddisfatta, sia essa volontaria oppure no. Un drogato nei centri di riabilitazione soffre di un'astinenza che gli è imposta, mentre nell'ambito religioso essa è volontaria, sia per guadagnare dei favori presso la divinità, sia come atto di riconoscenza. Per il cristiano vivere con Cristo significa avere una vita colma di propositi, ricca di contenuti, benedetta, felice e sicura in Dio, ma contemporaneamente egli deve ogni giorno e ogni istante, come atto di riconoscenza, astenersi dai desideri naturali che sono corrotti e contrari al volere di Dio. L'apostolo Paolo lo esprime molto bene quando scrisse la lettera alle chiese della Galazia. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Infatti, la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, in modo che voi non potete fare quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione e impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. GL 5.1625. Coloro che sono partecipi dello Spirito Santo mediante la fede salvifica in Cristo si trovano ad essere il campo di battaglia tra i desideri di santità dello Spirito di Dio e la malvagità che abita nella loro natura umana. Perciò è impossibile per un cristiano non soffrire di astinenza. La propria natura corrotta reclama la necessità di esprimersi, mentre la persona dello Spirito Santo non glielo concede. Perciò il compito del credente non è tanto quello di combattere una battaglia in pari con la propria natura malvagia, ma semplicemente di astenersi e non soddisfare le proprie inclinazioni malvagie. Ho letto la commovente testimonianza narrata dal figlio del conduttore di una chiesa, il quale, dopo aver dedicato la sua vita alla predicazione dell'Evangelo, morì di tumore. Il figlio racconta che, nell'ultima settimana di vita, il dolore fu così intenso da persistere per l'intera giornata, inducendo il padre a uno stato di coma. Quando sognava, riportava ad alta voce il sogno. Una notte, poco prima di morire, la moglie e il figlio gli stavano accanto quando improvvisamente l'uomo si agitò e cercò di alzarsi. Sua moglie lo invitava a stare sdraiato perché era troppo debole e, vista nell'insistenza, gli chiese perché volesse alzarsi. «Devo ancora salvare un'anima per Gesù», rispose, e secondo la testimonianza del figlio lo ripeté ancora almeno 100 volte. Mentre il figlio sedeva sul suo letto, con le lacrime che gli scorrevano dal viso, chinò il capo e ringraziò Dio per la fedeltà del padre. In quel momento il padre stese la mano fragile, la pose sul capo di suo figlio e gli disse, come se volesse dargli un incarico, «Salva ancora un'anima per Gesù! Salva ancora un'anima per Gesù!» Perché questo racconto? Che relazione ha questo episodio con la sofferenza per astinenza? Forse non molta. Ma l'episodio mi ha toccato perché ha messo in evidenza un aspetto del cristiano che mi riguarda da vicino. Abbiamo detto che l'astinenza può essere definita una qualsiasi necessità non soddisfatta, che essa sia volontaria oppure no. La necessità che si era imposta a quest'uomo per amore di Cristo lo aveva accompagnato anche sul letto di morte, portare le anime a Cristo perché siano salvate. Quest'uomo soffriva terribilmente. Ormai non aveva più nulla da desiderare, perché se ne andava per sempre da questa terra. Eppure soffriva per un'astinenza a meno, cioè quella necessità non soddisfatta a meno, che era più forte del dolore del tumore e della morte. Non ho parole. Sul letto di morte molti hanno maledetto Dio, altri erano indifferenti, altri ancora hanno ringraziato Gesù perché erano salvati, ma pochi, pochissimi, hanno avuto un desiderio così forte per Dio e per la sua causa da dimenticare o soffocare la sofferenza presente. Sta scritto nella parola di Dio che chi fa conquista di anime è saggio, PR 11.30, e questo vuol dire che il padre in questione è morto da saggio. Pochi hanno raggiunto un simile traguardo. Tra le tante sofferenze esaminate fino ad ora, che questa possa essere la più ricercata. 10. Si soffre a causa del diavolo, o Satana, Luca 10:13. Parlare del diavolo è un bene ma anche molto pericoloso, non tanto per l'argomento in sé, ma piuttosto perché, molto spesso e volentieri, si porta in ballo il diavolo per discolparsi dei propri punti deboli. È vero che chi non appartiene a Cristo è in preda alla volontà del diavolo, ma poiché è anche vero che abbiamo tutti delle inclinazioni sbagliate, non possiamo attribuire sempre a Satana ogni nostra sofferenza. Precisato questo, la parola di Dio riconosce la realtà di sofferenze che ci pervengono direttamente dal diavolo, e questa è una delle risposte che offre il cristianesimo alla sofferenza. Per chi è incredulo, e anche ateo, e perciò rifiuta ogni ragionamento metafisico, non ha senso parlare del diavolo, ma non ha neppure senso per un cristiano tacere sulla persona del diavolo, solo perché qualcuno lo rifiuta. Se questo fosse giusto e corretto, anche per l'ateo non avrebbe senso negare le realtà spirituali, perché il cristiano le crede. Rispettare l'opinione altrui non significa non contraddirla. Dunque, secondo la parola di Dio, il diavolo fa soffrire l'uomo. Questa non è l'opinione soggettiva di un credente, ma una verità dichiarata più volte nelle sante scritture. L'esempio più clamoroso è descritto nel libro di Giobbe, dove Giobbe, l'uomo famoso per la propria pazienza, tanto per intenderci, è oggetto di contesa tra l'Eterno Dio e Satana. L'Eterno Dio provoca Satana perché gli fa notare come Giobbe sia integro, e Satana sfida l'Eterno chiedendo di provocare della sofferenza nella vita di Giobbe. L'Eterno glielo permette, impedendo a Satana però di togliergli la vita. Valutandone seriamente il lato storico e morale, se ne trae informazioni relative all'operato di Dio e di Satana. Per prima cosa possiamo comprendere che Dio non è mai l'autore diretto del male o di ogni tipo di sofferenza, ma essa è procurata da Satana stesso. Inoltre, le sofferenze che Satana procura sono sempre sotto il controllo di Dio, e nulla è permesso che non sia umano. Infine, l'episodio di Giobbe ci dice che la sofferenza dell'uomo non è sempre proporzionata al peccato o alla sua disubbidienza, ma essa fa parte dei piani di Dio. Infatti, Gesù, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, fu tentato nel deserto da Satana, e questo non certamente perché era da correggere da parte di Dio. La tentazione di un credente a volte può servire a dimostrazione della sua integrità davanti alle potenze diaboliche. Un altro episodio che descrive la sofferenza dell'uomo inflitta dal diavolo si trova nei Vangeli. Così narra il medico Luca: or Gesù insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato. Ed ecco, vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Or Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Molto probabilmente la donna soffriva di una forma di reumatismo abbastanza grave e oggi spenderebbe un mucchio di soldi per cercare un certo benessere, ma senza risultato. Perché questa osservazione? Perché anni addietro molte malattie erano diagnosticate come il risultato dell'opera di Satana, mentre oggi a tutte le malattie viene data una spiegazione scientifica. Essendo ogni eccesso sbagliato, È opportuno mantenersi equilibrati e vedere che in certe malattie la mano del diavolo è concreta. Come riconoscere le malattie o le sofferenze provocate dal diavolo? Occorre esaminare, caso per caso, come faceva Gesù, che non guariva tutti nella stessa maniera. Più volte ho assistito a delle guarigioni verificatesi solo con la semplice arresa a Dio. Ho visto delle guarigioni fisiche che sono avvenute istantaneamente con la sola nuova nascita mediante un atto di fede salvifica in Cristo. Come ho assistito a guarigioni fisiche di credenti mediante un abbandono totale alla volontà di Dio. E questo perché gli increduli erano schiavi di Satana per compiere la sua volontà, mentre i credenti non si erano liberati completamente dalla schiavitù del diavolo. Questa è un'altra risposta cristiana alla sofferenza. Qualcuno può anche rigettarla, ma inutilmente, perché la sofferenza fisica e morale dell'uomo rimane. Volendo invece ottenere dei risultati di guarigione, non resta che accettare il responso di Dio. Quindi, Satana tenta, prova, fa soffrire l'uomo in mille modi e in mille maniere, al punto che alcuni sono ossessionati dal pensiero, mentre il credente che ha una rivelazione completa della sovranità di Dio vivrà nella piena libertà, ritenendo che le cose nascoste appartengono a Dio, mentre le cose rivelate siano per lui e per i suoi figli per metterle in pratica. Diti 29.29.11 Si soffre per diventare infermieri di chi soffre. 2 Corinzi 1.1.7 Nessuno di noi nasce maestro, perciò se in tutte le discipline abbiamo bisogno di imparare prima di insegnare. Il cristianesimo insegna che anche il figlio di Dio, benché fosse potente in ogni cosa e quindi anche nel consolare gli afflitti, dovette passare attraverso l'esperienza della sofferenza per essere in grado di consolare chiunque si trovi in qualsiasi afflizione. Infatti, così si esprime l'autore della lettera agli Ebrei. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Eb 4.1.4.16 Questa risposta cristiana alla sofferenza è molto importante, perché il Dio dei cristiani non è come Allah, il Dio dei musulmani che non può avere una relazione con l'uomo a causa della propria trascendenza, non è simile a tante divinità, né impersonali né umane, ma è un Dio esperto o familiare con la sofferenza. Is 53.3 Per questo il credente, quando si rivolge a lui per ottenere soccorso, sa di parlare con qualcuno che lo può comprendere e che è in grado di aiutarlo al momento. Questa risposta cristiana alla sofferenza dovrebbe far tacere per sempre gli increduli. Anche perché, dov'è possibile trovare un'altra risposta migliore? Quale divinità si presenta come uomo tra gli uomini, sofferente tra i sofferenti? Infatti, parlando sempre di Gesù, l'autore della lettera agli Ebrei prosegue: nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Ebrei 57.10 Il cristianesimo non offre un concetto filosofico, ma il messaggio del Figlio di Dio che ha sofferto per poter aiutare chiunque soffre. Se Gesù Cristo ha sofferto per essere in grado di aiutare coloro che soffrono, quanto più coloro che hanno posto la fede salvifica in Lui devono soffrire, e per questo la sofferenza giusta nel cristianesimo è stata elevata ad un ruolo nobile e molto importante. L'Apostolo Paolo lo dice molto espressamente nella sua seconda lettera ai Corinzi. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. 2 Co 1.27. È molto importante comprendere e soffermarci su cosa sia la consolazione, sia per poterla ricevere, sia per poterla dare. Per alcuni la consolazione è l'essere presi fuori da una situazione sgradevole o aver risolto una problematica. Ma se anche può avere una simile connotazione, essere consolati significa ricevere parole che danno nuove ragioni di andare avanti o credere ad una promessa. Il bambino che piange perché la macchinina si è rotta può essere consolato se il papà ne promette un'altra o se gli si fa presente che in fondo ha tanti altri giochi migliori ai quali dedicarsi. Così è del cristiano. In qualsiasi penuria si trovi il prossimo, egli annuncia che le cose terrene sono passeggere mentre quelle celesti sono eterne. Oppure consola dicendo che qualsiasi cosa si possa perdere chi ha fede in Cristo ha comunque il bene prezioso della sua presenza. Qui non si tratta di convincere il prossimo o di menarlo per il naso tanto perché stia bene, ma sono le promesse di Cristo. O Cristo è una realtà, o nulla, ma proprio nulla, sofferenza inclusa, ha niente da dire e le sofferenze del presente restano tante schegge impazzite che penetrano nell'anima e nel corpo. Ma il cristiano si vanta nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza l'attesa. RM 5.4 di essere con Cristo. Del resto non vi è nulla di meglio in questa vita. Un credente torturato oltre ogni immaginazione disse: «Le persone che soffrono davvero sono quelle che non realizzano la presenza di Dio». Dicembre 2007. Contributo. Il problema della sofferenza, Lewis. Gioia nel dolore, coraggio nella crisi, casa della Bibbia. James E. Lynch. Ellero.